Le 9:30. Nel negozio di Giovanni. Ciao Giovanni, come stai? Lorenzo, che piacere! Io sto bene, e tu? Bene, grazie. Complimenti, la tua fidanzata è bellissima. Oh, no. Questa è la signorina Sarah Jenkins, una collega inglese. Molto piacere. Piacere. Allora, signorina, le piace Firenze? Oh, sì, mi piace molto. Complimenti, il suo italiano è perfetto. Not really. Sì, è bravissima. Senti, Giovanni, cerchiamo degli occhiali da sole per Sara. Ah, qui abbiamo occhiali di marca bellissimi. Ecco, guardi, questi sono i più moderni. Le piacciono? Oh, yes, can I try them on? Certo. C'è uno specchio? Sì, lo specchio è là. Sono troppo grandi per me. Sì, è vero, sono troppo grandi per lei. Ecco, questi sono più piccoli. Let me see. Fiori, signore, fiori per la signorina. No, niente fiori. No, niente fiori. Sì, mi piacciono. How much are they? Quanto costano? Vediamo, questi vengono 120 euro. No, they're too expensive. Troppo cari. Troppo cari? Ma le faccio uno sconto. Giovanni is offering uno sconto. Sì, per lei solo 100 euro, perché è un'amica di Lorenzo. 100 euros. È un grosso sconto. Well, that's a sconto I can't refuse. Va bene. Benissimo. Con questi occhiali è ancora più bella. Certo. Can I pay by credit card? Può pagare con carta di credito? Ma è meglio in contanti, con lo sconto. Cash would be better because of the discount. Ok, nessun problema. Here, where's my bag? La borsa? I put it on the counter, it's disappeared. Oddio, il ragazzo dei fiori! Accidenti, ma non è possibile! Oh my God, my credit cards, my money and my passport! Il mio passaporto! Chiamo subito la polizia! Un momento! Scusi, Sara, è questa la sua borsa? Oh, yes, but... dove? Sul pavimento, proprio qui. Ah, meno male! I am so sorry. I must have put it down when I tried the sunglasses on. Thank you. Grazie mille. Di niente. È meglio controllare se c'è tutto. Check if everything is there. Oh, yes. E le carte di credito ci sono? Yes, ci sono. And the money is also here. Ci sono anche i soldi. Bene. Sì, bene, ma il passaporto c'è? Il passaporto, sì, c'è. Oh, but wait a minute. Non è il mio passaporto. Non è il suo passaporto? E di chi è? Whose passport is it? It says George Wickham. E chi è George Wickham? Oh, there must have been a mistake at reception. Sì, è possibile. Il suo passaporto è sicuramente alla reception. Ah, è meglio telefonare subito all'albergo. C'è un telefono nel mio ufficio. Grazie, Giovanni, ma ho il mio cellulare. Ah, certo, il telefonino. Però non ho il numero. C'è un elenco telefonico? Certo, ecco. Dunque, ecco, Hotel Berchielli, 055 23 55 41. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Lorenzo Conti e sono con la signorina Jenkins e... Come? Il signor Wickham è là? Con il passaporto? Sì, esatto, non c'è problema. Arriviamo subito. Arrivederci. Sì, il signor Wickham è alla reception con il suo passaporto. Oh, thank God. Thank you so much. Grazie mille. Prego, non c'è di che. Bene, torniamo all'albergo. Giovanni, grazie e a presto. Yes, thank you. Grazie. Arrivederci. Sì, ma gli occhiali? Gli occhiali? Yes, I'm wearing them. Appunto. Oh, I have to pay. Vero? È vero.